è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo, è ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample, è terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da Hit Parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Pillola Rossa naviga a vista in questa puntata numero 11. Notiamo con un braccio solo, manca il socio d'avventura, ci ha lasciato qualche pillola lui che ascolteremo dopo, e in questo momento questo era Kento in Stalingrado, e noi intanto andiamo avanti con un gruppo insomma molto famoso. Questa è una versione live che è insomma sono di Alma Migretta, fatta là. Se uno vuole si fa là, se no. C'è una scelta, dico. Il prossimo pezzo si chiama fatta là, è la cosa che viene detta a tutte le persone che vengono dall'Africa e dall'Asia qua a cercare un po' di legittima felicità dopo che la civile Europa gli ha devastato i loro paesi di provenienza. L'unica cosa che viene detta è fatta là, in napoletano significa vattene. Fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Spazio vitale, identità razziale, che tutto quanto tenne nell'orgoglio nazionale. Fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Fatta là, show, non so come che ricetta. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata tra popolazione. Fatta là, la Germania ricce. Fatta là, la Croazia ricce. Fatta là, show, le ricce, fatta là, che c'è una botta, si da puzza e fatta, si da moro né creatura, si non tiene mai né panna. Chi danda che niente, e chi ottene non un dovrà, chi danda che niente, e nessuno non un gioporà. Germania e tedeschi si enteranno qua, Croazia e croati si enteranno qua, Lombardia e lombardi si enteranno qua, e tutti quanti insieme dicono fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Fatta là, show, non so come manca ricetta. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata tra la popolazione. Fatta là, la Germania dice fatta là, la Croazia dice fatta là, show, le lombarde dice fatta là, che c'è una botta, si da puzza e fame, si da morra ne creatura, si non tiene manca e panna. Thank you. diciamocelo noi, fatta là a questo regime in doppio petto. A questo regime fatto di televisioni e di luci della ribalta. Sappiamo bene, con noi non useranno né manganello né olio di ricino, sicuramente. Hanno delle armi più potenti, 5 televisioni e 4 giornali. Dice il mangiare lui, fatala, fatala, fatala, fatala. Questa nuova civiltà, non c'è sta spazio e manca un po' di diversità. Tutto inserrato anche a costo di sparare. Renda su serraglia, ma uno culturale. Nord e sud, sì, ma tutto quando è uguale. Un mezzo sul sistema che ci ha fatto tutte schiava. E allora è venuto un momento e ci ha mischia costruì una società che non dice fatala, la, la, la, non c'è posta, fatala, la, a casa mia non c'è posta, fatala, show, non so può manca ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata troppo rapa, popolazione. Fatala, la Germania riccia, fatala, fatala, la Croazia riccia, fatala, fatala, show, le Lombarda riccia, fatala, che c'è una foto, si, dopo se fa, ma si, tomorrow ne creatura, si, non viene, ma che panna. Chi tanto che niente, e chi ottene non un ciò vorrà, chi tanto e chi niente, e nessuno non un ciò vorrà. Allora riesci il macello noi, fatala, a tutti i razzisti, fatala, a tutti i leghisti, fatala, a tutti i nazisti noi, fatala! Ci mangiamo veramente, dai! Fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, show. Ciao Blario, vieni a messa? Ciao Teldo, no, non mi va. Come non ti va? Non mi va più di sentire quelle cose che ha già detto un altro, io ho delle idee mie. Cioè? Cioè, secondo me l'uomo non discende dalle scimmie, ma dagli opossum. Il 45esimo giorno prima che Bubbolino ascendesse al cielo. Bubbolino, e chi è? È l'unico vero Dio che esista. Ma allora corri in edicola. Perché? Corri in edicola, perché da oggi in edicola c'è La tua religione, la prima pubblicazione periodica che ti aiuta a fondare la tua religione personale. Personalizza il tuo culto con una fede tutta nuova. In questa settimana il servizio La domenica mi riposo? Capisci qual è il giorno da santificare? Inoltre la rubrica Argilla fai da te, costruisci il tuo idolo personale in 10 facili lezioni. E in questo numero di La tua religione, in regalo manuale di David Copperfield per spacciare illusioni per miracoli. La tua religione, per te che aspiri al top. Buongiorno, mi dà la tua religione? Mi dispiace, è finita. In verità ti dico, inginocchiati e prega ed apparirà la nuova copia. E cosa devo dire? Di solamente lode a Bubbolino. Lode a Bubbolino. È apparsa? No. Preghiamo ancora. Lode a Bubbolino. E mo? No. Preghiamo ancora. Lode a Bubbolino. È apparsa? No. E allora prega ancora. Lode a Bubbolino. È apparsa? No. E allora prega. Lode a Bubbolino. E mo? La tua religione. Lode a Bubbolino. Corri in edicola. Convertitevi! Convertitevi! Verrà il giudizio di Dio! Costola di Bologna Violenta con minimi discorsi del Papa. Tanto qua Zam è esploso qualcosa, perché ragazzi c'è una nube nera preoccupante. Avete visto? E direttamente ora, mentre noi monitoriamo la situazione, vi facciamo sentire una vecchia caccia alle streghe, pezzo storico, registrato un po' da vinile, quindi magari si sente qualche imperfezione, però è il fascino della puntina, no? È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, non la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta lotterà con noi domani. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, con la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi la camionetta hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta lo sarà con noi domani. Ragazzi, Pino Masi si è concluso, e monitoriamo il benzinaio che sta fumando parecchio. Nel frattempo questo è un appuntamento in uno di questi festival estivi che iniziano un po' in questo periodo estivo. Loro fanno da spalla ai Negative Approach, storico gruppo hardcore statunitense. Loro però sono italiani, derivativi dal punk anni 80, di apoptosi. Li facciamo sentire, così decidete se andare o meno al live. Secondo me sì. È scoppiata la guerra. Tanto era scoppiata la guerra. Tutti i giorni cadaveri della mia città, cercate di rimanere piacciate per le strade che hanno per le loge. Giorni di parte di plastica, la naia della plastica, tutti per il simile il naso, la naia della plastica. Ma per il tuo senso di essere, fai e sciogliti, ma per il tuo senso di essere, fai e stare già. Tutti come vedi e scintillanti, con luci abbaiati, tutti con la merda nella bocca, tutti assai. Io, Ragionier Total, non sono diverso da voi. né voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni, diseguali nel loro soddisfacimento. Io so che non potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho, fino alla morte. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi. Si riempiono il corpo di piaghe, dentro e fuori. Tanti altri cadono, muoiono, vengono esclusi, distrutti, trasformati. Diventano bestie, pietre, alberi morti, vermi. Così nasce l'invidia. E in questa invidia si nasconde l'odio di classe, decomposto in egoismo e quindi reso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile, così come lo sta diventando per molti di voi. Atrox, città maledetta, trasmettiamo in diretta da ZAM, dove sta praticamente qui 5 minuti fa è esploso un benzinaio, probabilmente stanno arrivando, nube d'era tossica, come dicevano gli Atrox, città maledetta. E vi facciamo ascoltare adesso un pezzettino, ne ho un ritrovamento un po', lui è straniero, canta in italiano, è una cosa un po' goliardica, però il nome è da rispettare, quindi la trasmettiamo lo stesso in virtù dell'italiano che si è studiato per l'occasione. Indovinate chi è? Devi usare un pollo, se me la vuoi, testa, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, devi usare un pollo, se me la vuoi, misura, devi usare un pollo. Se me la vuoi, testa, tengo una minchia tanta, tengo una minchia tanta. Così tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un pollo, devi usare se la vuoi misurare, devi usare un pollo, se me la vuoi tastare. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. You suck my fire. Oh yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa. È chiaro. Sì, era Frank Zappa che abbiamo tagliato malamente perché va bene che si vanta, però non esageriamo. Adesso un contributo del Fantasma Nettuno che ha lasciato questo testamento per continuare la sua storia, storia che sarebbe la terza parte di questo vecchio rivista degli anni 70, esattamente 40 anni fa. La storia di French Edita va avanti. E c'è il sequestro dei figli del costruttore palermitano Ciccio Vassallo. Sempre Coppola lo avrebbe attribuito a Liggio in qualità di mandante e fratelli Taormina come esecutori materiali. Quel sequestro avvenne nel giugno del 1971 e fu seguito ad un anno di distanza da quello ancora più clamoroso dell'ingegner Luciano Cassina, rilasciato dietro pagamento di 1.300.000.000 dopo 176 giorni di prigionia. Nell'uno nell'altro dei due casi giudiziari è ancora pervenuto a processo di primo grado e l'istruttoria solo adesso, guarda caso con l'arresto di due nipoti di Frank Coppola a Tre Dita di Pardinico, uno prete e nella cui abitazione in canonica a Carini sono state trovate persino banconote, di un sequestro avvenuto il 1 marzo di quest'anno a Lodi, quello di Emilio Baroni, 850 milioni di riscatto, sembra aver imboccato la strada buona. Abbiamo il problema di piazza mercato, abbiamo... Ah! Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non so più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela di qua. È perché sono malato, tutti mi tormentano. È perché sono sbagliato, tutti ne approfittano. Ho E niente, quindi bisogna chiudere le finestre a Milano Sud, perché questa nube tossica, petrolio sicuro, assolutamente non deve entrare, fischiano un po' anche i vetri. E questi erano gli Ottavo Padiglione, ho piccato la testa, gruppo un po' vecchiotto. Prima di continuare, presentiamo uno dei 2000 appuntamenti che ci sono in questo periodo, che riguardano appunto i concerti estivi, tutte le associazioni che lo organizzano. Allora, questo è un po' lontano in realtà, però visto che il gruppo secondo me merita di brutto, e visto che magari, che ne so, ci ascoltano anche un po' più lontano, lo diciamo. Allora, siamo dalle parti di Arezzo. Questo è l'Urto Festival, dove c'è un po' di tutto, quindi è a parco, è al parco di Villa Severi. È una due giorni, cioè nel senso che ci sono oggi due concerti, il Canale e gli Electric Rastrello, e domani c'è questo gran gruppo che è italiano, un po' cioè iniziato, infatti facciamo sentire un pezzo degli anni 90, un po' debito nella stagione del grunge, così. Sono gli Uzeda, i siciliani Uzeda, che adesso qua sono al 1 giugno all'Urto Festival Arezzo. Questa è Slip Dipper, perché l'inglese io non lo so mica tanto. È un fuori quota, nonché mezzo concerto, quindi canto in inglese, sì, lo so. In edicola a comprare il primo numero di Poveraccio. Poveraccio è la rivista di chi non ha un soldo. Nel primo numero un reportage su luoghi di vacanza più economici: Torvaglianica, Fiumicino, Monte Porzio Catone. La mappa di tutti i discount della vostra città. Come far bella figura con un regalo riciclato. Poveraccio, la rivista di chi se la passa male. Nel primo numero, il regalo, una finta tessera stampa per imbucarvi alle anteprime cinematografiche e teatrali. Poveraccio, io non ho una lira, e tu? Poveraccio, ti aspetta in edicola. Sull'erba cattiva e stai certo non muore, ti sono nata pulita in dall'aria tu dica ma non vuoi sentire. Sull'erba cattiva e stai certo non muore, e sto sempre aspettando che passa una fronte e mi viene a trovare. Non sento a nessuna, non vedo e non parlo, mi pensiero la gente che stanno in due mondo ti posso spiegare. Non sento a nessuno, non vedo e non parlo, mi pensiero la gente che stanno in due mondo ti posso spiegare. Non tengo a nessuno, sono quell'erba gramigna, sto attaccata a sto muro, sto chino e paura, non posso allucare. Sto aspettando una tempesta che mi porta lontano, che mi porta lontano, lontano, lontano, tu pozza campare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo, mi pensiero la gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo, mi pensiero la gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Gennaro Porcelli, l'erba cattiva, un blues, l'abbiamo dato un blues, l'abbiamo dato Danny. Allora, per quanto riguarda invece un altro degli appuntamenti che qua magari si smette, ogni tanto c'è qualche botta che esplode, qualche serbatoio della benzina, e per quanto riguarda i numerevoli eventi ve ne dico un altro. Questo è il nome straniero, canto in straniero, fuori quota, lo so, non dovrei. Sono in due posti. Loro sono i Siouxsie and the Skanks. E suonano al solito al rock, quello di Cassano Dadda, che lo terremo d'occhio in queste settimane, perché comunque fanno una buona... C'è un buon giro di gruppi, diciamo. Prima abbiamo detto che c'erano i Negative Approach, adesso vi diciamo che il giorno prima, ovvero il 2 giugno, ci sono i Siouxsie and the Skanks, e poi ve ne diciamo un altro. Suonano lì, l'ingresso è completamente gratuito al campo sportivo di Cassano Dadda. Che giorno? Il 2 giugno. e suonano anche un altro festival il giorno prima, che è quello a Forest Festival, che è a Cigole, dalle parti di Brescia. Anche loro organizzano festival, tutti organizzano il festival, ragazzi andateci, perché insomma si contribuisce con le associazioni, si mangia un panino, due birrette, la musica è free, quindi sosteniamo a pieno, al posto magari di investire questi centoni per qualche concertone che poi ogni tanto si possono anche spendere, però ci sentiamo in sartoria, i Six and the Bands Scans. Questa è Sartoria, ve la faccio sentire esattamente ora. Che vi starete sicuramente chiedendo perché vi ho convocati qui. Sì, sì, ma io lo so dove vuoi andare a parare, però Pietro, veramente, l'ennesima manifestazione dei ricercatori precari davanti a Montecitorio, dopo la manganellata dell'ultima volta. No, Arturo, io non vi ho chiesto di venire qui per l'ennesima manifestazione su Italia alla ricerca. Anzi, io vi ho chiesto di venire qui proprio perché non ne voglio fare mai più. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Dai, su, guardiamoci in faccia. Noi sappiamo solamente studiare. Non ce lo fanno fare? E allora io ho studiato un modo

qua si dice che è un deposito, un gommista, se sia, sia esploso, non lo so. Grazie a, anche a un valido contributo che è arrivato a darmi una mano a livello tecnico, grande Ponzio, quello che se ne lavò. E questa è la seconda parte della terza puntata della incredibile storia di Frank Treated. Ma non basta. Questi Taormina sono gli stessi nella cui cascina, nei pressi di Treviglio, in provincia di Bergamo, è stato ritrovato Luigi Rossi di Mondelera, nella stessa cella bunker che si sospetta sia stato tenuto nascosto anche l'industriale Pietro Torrielli di Vigevano. 1,5 miliardi di riscatto. Se i Taormina fossero stati chiamati duramente in causa per il sequestro vassallo, difficilmente avrebbero potuto mettere a disposizione la loro opera personale e il loro impianto prigione per le successive imprese. We'll be right back. questo è il post rock dei Three Steps to the Ocean, italiani, non fatevi ingannare dal nome. Li abbiamo messi che anche loro sono a questo festival a Cassano, al campo sportivo, suonano venerdì con i Baratro, che volevo metterli per il nome però, e quindi ingresso gratuito anche questi. Facciamo finire il pezzo che è bello lungo, è bello mastelloso. Oh Duccio, senti, ti ho dato problemi ragazzi. No, volevo questo carrello lungo ad andare e a tornare. E vorrei che mi facessi una... Diglielo a lui che poi glielo spiego io come si fa la... Senti, non mi pia per culo Duccio, io voglio te. Basta con la fotografia da fighetto del sto stronzo, capito? Io voglio la roba tua, la roba tua, un tanto archivio, hai capito? La roba tua di una volta. Voglio che apri tutto. Voglio che smarmelli. Questo è il vero metallo italiano invece. Nanowar Steel con le bestie di Satan. Non mangia carne, è stata una sua scelta. Ah sì, pensa che il mio domani va a liberare le papere in Norvegia. Mangia cadavere, non mi fai paura, finché ancora un papere duro. Quello che fai è contro natura, lo si evince dalla dentatura. Non è vero che ho poca memoria, basta mangiare un etto di cicoria. Non è vero che ho un etto di cicoria, finché vuoi questo filetto di merluzzo? Non assaggerò mai! Io sono vegetariano! Oh!

pompiere e gli dissi che l'avrei aiutato. Fermi! Fermi! Andate a chiamare! Attimo di discesa, era Bugo che suonerà, Piacenza. Questi invece sono i Biancaneve. Festa Arci a Piacenza, sempre free. I Biancaneve con Specchio. Recupero che l'ho detto un po' male, la festa Arci che ci sarà a Piacenza e Bugo ne farà parte praticamente, quindi Arci in festa, l'ex caserma, Studio Morena con il Mombau il 31 maggio, venerdì, e sabato c'è Bugo con i Nuvolari. Adesso, prima di presentarvi poi successivamente l'altro pezzo, andiamo in pubblicità, e via con la pubblicità. Sei preoccupato per l'ambiente ma non vuoi rinunciare al tuo telefonino per rimanere connesso con i tuoi cari? Prova il nuovo Ecophone Verde della Fast Plus. Ecophone Verde della Fast Plus telefona come gli altri telefonini, manda SMS, naviga su internet e scarica le email come gli altri telefonini, ha la scocca in plastica e le batterie a litio come gli altri telefonini, anzi è uguale in tutto e per tutto agli altri telefonini. Ma se ami l'ambiente, compra il nuovo Ecophone Verde della Fast Plus, l'unico telefonino uguale agli altri telefonini ma con l'ecologica confezione verde. Ecophone Verde della Fast Plus. Allora, prima di mettere l'altro, perché va presentato un po', il nuovo progetto di Max Collini, una storia d'amore, d'amore di dischi, che dura un po', però insomma, come storia insomma si ascolta. Questi sono gli Spartiti, si parla di Elena e di un gruppo che insomma poi è diventato famoso, ma all'epoca non c'era. Me ne andai di casa nel 1989, l'anno che incontrai Elena. Elena era una ragazza bellissima che mai avrei avuto il coraggio di avvicinare. Tornavo dalle ferie e ci trovammo insieme a lavorare nella paninoteca di un cesso di paese tra Reggio e Modena. Davanti al locale alla fine di agosto c'era un piccolo Luna Park viaggiante con musicaccia a tutto volume. Mezzanotte. Dalle casse dell'autoscontro deserto parte una ninna nanna dei Cure. Mi faccio accanto alla marziana e le comunico che la riaccompagnerò a casa io, perché il capo stasera non può. Piove. La ninna nanna è finita. Sono stanco. La mia utilitaria scassata va in città e la passeggera pare infastidita dal mezzo proletario che la trasporta. Cerca di attaccare discorso. Fa commenti su un adesivo del PC incollato al cruscotto e penso. Una parola meno che neutra sul partito e la mollo per strada immantinente. Lei dichiara con quella faccia, quelle tette, quei capelli, quegli occhi, simpatie politiche affini. Sono stupito ma faccio finta di nulla e la scarico davanti al portone senza dire niente. Tutti la cercano, tutti ne parlano. Al locale è diventata l'argomento del giorno. Quasi la ignoro. Non mi abbasso né mi confondo con chi sbava. Mai più nella vita sono riuscito a tenere fede ad un comportamento così perfetto. A chiunque mi chiedesse di lei, la stessa risposta. Non avete mai visto una bella ragazza? Alla ventenne abbronzata non pare vero che esista qualcuno che la guardi come si guarda un giorno qualunque, che eviti di interrogarla con spirito costruttivo, che parli solo se interpellato, che la riaccompagni a casa ogni sera e davanti al portone abbia già la prima inserita e se ne vada senza nemmeno mettere in folle. Lavoravamo insieme 3 volte a settimana e decise che meritavo la sua confidenza. Parlava di ogni possibile affare suo e io ascoltavo. Quella creatura ci provò in ogni modo a scardinare la mia improponibile freddezza. Mi invitò perfino a visitare la sua stanza e a restare, a dormire. E io naturalmente dormii, ormai completamente dentro la mia parte di uomo irraggiungibile. Mi sentivo bene a fare il guastatore delle certezze altrui, corteggiato, cercato e al centro dell'attenzione di tanto ben di Dio. Una parte che nella vita non mi è mai più capitata, soddisfazioni che qualcuno di voi capirà, orgoglio di gioventù presuntuosa, ma per una volta padrona di sé. La donna che poi mi traghettò nella vita vera troppo presto, patì per avermi. E mai ebbe il sospetto che la mia strana ritrosia fosse solo paura, prudenza e commedia ben mistificata. Andò avanti per settimane. Finché arrivò al punto di dichiararsi lei, entrò nel letto semi-nuda e decise che se la giocava tutto in una volta. Per l'ultima volta la rifiutai e sia chiaro, sta parte da scemo incorruttibile l'ho pagata nel tempo con interessi da usura. Quando accettai finalmente la sua mano fu un caos. In pochi giorni mettemmo su casa insieme senza una lira, 2 cuori e una caparra. Io sentivo i diaframma e lei George Michael, ma fa niente. Ricordo che sullo stereo c'erano 2 dischi. Il mio era In perfetta solitudine, il suo Ascolta senza pregiudizi, un titolo fortemente ideologico. Le nostre divergenze in merito erano piuttosto marcate. Andò in Inghilterra dai suoi parenti qualche giorno e tornò con un regalo. Mi disse: io sono una che ascolta roba semplice, non sopporto la tua new wave italiana a stonate triste. Ti ho portato un disco nuovo, secondo me riuscirà ad aprirti altri orizzonti e forse capirai che il mondo non finisce a Campi Bisenzio, insieme ai tuoi gruppi toscani, che non conosce nessuno. Non scartai subito la confezione e un po' scocciato risposi che lei non poteva capire. che una che ama George Michael è ottusa di natura. Ero sicuro che Elena, le sue orecchie, il suo cervello e tutto il resto servissero per altri scopi altrettanto nobili, ma non omogenei alla comprensione dell'arte del suono. Si offese della mia presunzione mentre, terrorizzato, scartavo il regalo, convinto che avrei avuto a che fare con Rick Astley o, al massimo della fortuna, con Lisa Stansfield. Sai che orizzonti mi si apriranno, pensai. Contro ogni aspettativa non avevo mai sentito nominare quel disco, né chi lo aveva realizzato. Del resto, era stato comprato a Londra, il solito pop inglese. La copertina era azzurra e rimasi un po' così davanti all'immagine di un bambino piccolissimo immerso nell'acqua e già pronto per abboccare all'amo del dio denaro. Mai, mai sottovalutare una donna che vota comunista. Furono 3 anni di felicità e martirio. Un lungo seminario che alle volte ricordo malapena e altre volte illumina giorno la mia memoria che ascolta. La fine fu tragicomica. Questo è uno degli episodi del periodo di decadenza, prima dell'inevitabile congedo. Andò al mare, un weekend da sola con una sua amica. Le prestai anche i soldi. Poi la sua amica fu vista in città. La chiamai all'albergo. Le dissi che era un po' stronza a piantarmi le corna così, senza classe, senza stile. Tornò il giorno dopo e sulla lavagna di cucina le lasciai un messaggio breve. Questi erano gli Spartiti, quindi Max Collini alla voce, con insomma questa perché scoperta. Perché solo lo stile ci salverà. Ci stavo andando sopra, ci stavo andando sopra. E con la scoperta del disco di Nirvana. E vi dico, vabbè, è un deposito di camper, ormai è quasi ufficiale, quello che è scoppiato. E prima di mettere gli ultimi 2 pezzi, salutiamo Nettuno che si è perso in mezzo, non so, cioè a fare, scappato all'Arma Bianca. E non abbiamo detto questo festival, che in realtà secondo me è interessante, è un po' spostato però tra Cremona, più vicino a Cremona, però c'ha assolutamente dei gruppi di primo livello, ovviamente entrata gratuita. Si chiama Borghi Lenti Festival, e questo weekend, venerdì, sabato e domenica, a Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Lodi. Venerdì 31 c'è Paolo Fresio, che dovevamo mettere, e questa è stata la nostra mancanza, ma lo metteremo le prossime volte. Ci sono i Fine Fatal sabato, e domenica ci sono i Mephisto Brass, che ci hanno fatto impazzire qua la festa del 25 aprile che abbiamo messo la volta scorsa. Gran ensemble di ottoni. E fra poco arriva la bruma, fra poco arriva, fra poco. Infileresti mai tua figlia di 3 mesi in una lavatrice? No. Lanceresti mai i tuoi pesci rossi con la fionda addosso al tuo gatto? No. Investiresti mai con un tir tuo fratello? No. Scaricheresti mai film da internet? Ammazza. Scaricare film da internet è reato. Sì, lo so, ti ammazza, nel senso sì, a voglia. Ah sì? Scarico tanti. Ma pure stasera dovrei trovarne uno già scaricato, perché sta lavorando al computer da stamattina. Ah, come non detto. Fatto. Veleno che stordisce le strade. la bruma. E niente, questo poi è l'ultimo pezzo, poi ci salutiamo e ci vediamo alla 12ª puntata della trasmissione speciale che promette solo musica italiana, tranne qualche raro caso, ma di, cioè, o sono stranieri che cantano in italiano, sono italiani che cantano in straniero, però la penisola italica c'è sempre di mezzo. Allora, venerdì c'è anche sciopero dei mezzi, la Cobas ci ritiene, gli autisti che vorrebbero chiudere vorrebbero chiusa la porta vicino a loro, sia d'entrata che d'uscita. Non so, che ho letto così due cose. Sciopero anche della Will, che per la sanità, ma qui è un punto che approfondiremo meglio nelle prossime puntate, visto che ci sono le lezioni. E vabbè, ci vediamo alla prossima, mercoledì, 12ª puntata. Vi salutiamo con un pezzo molto famoso, perché finiamo sempre col pezzo molto famoso, di solito è un po' più vintage, questa volta va così, anni 90. Lo conoscerete sicuramente. Lascia l'Ungheria. E mi raccomando, mentre carica fibra, sintonizzate bene e non fate quei test lì che ci sono sui giornali, che tanto lo sapete benissimo cosa dovete fare. Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è? E che faccia c'è, scusa? Fabri Fibra è tanta roba, come il detto, come andare meglio che scopare. Di chi era questa? Io lo so, lo diceva come non detto. Tu che ci fai qui? Dice passo per caso, se a un concerto passi per caso, pensi che la beva? Come chi? Come chi vota Lega. Disco fancadellistico non è questo, la storia è acida quando la senti fai ah. Preso male come Lucio Dalla, regionale via da Senigallia. Non vedevo l'ora di andare via, ora non vedo l'ora di ritornare a casa. Apro il cancello ma la porta è diversa e c'è un altro cognome sul campanello. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai. Le bugie hanno le gambe corte, quindi sarò onesto, mi sono accorto che in amore, come nel porno, taglio corto. Gli attori porno invece dicono che nella vita è il contrario, fanno poco sesso se il contrario. È come se al ristorante entri e ti danno già il resto. Quale Marte? Io vengo dalle Marche, tutti lo sanno, mi piacciono le Marche. Adidas, Levi's, Gucci, Dolce Gabbana, hai capito? Mi piacciono le Marche. Io la strada giusta l'ho persa quando penso alla vita che immaginavo di fare con i dischi, come questa strofa era diversa. Più buoni e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi rapper italiani che per e pe qua qua qua qua per e pe. Politici italiani che per e pe qua qua. Si chiama da solo, si manda i messaggi con scritto tesoro, si guarda allo specchio dicendo ti adoro, vorrei dirgli ma trovati un lavoro, cazzo, ma trovati un lavoro, cazzo, trovati una ragazza, cazzo, me lo diceva mia madre da ragazzo, lo disse al figlio anche la madre di Mars. Ora vai a capire che c'è dietro, anzi vai a capire chi c'è dietro. Mille strofe, rime catastrofe, l'opposto, l'apostrofo, apposto, l'apposto. Io con i vostri testi ortodossi mi ci pulisco il culo come Bossi, quale canta rallentatore, vaffanculo.